Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. 5 nazioni, Francia, Italia, Germania, Slovenia e Svizzera, è un progetto per sperimentare soluzioni dirette innovative nella zona alpina, dove la realizzazione di infrastrutture per il trasporto dell'energia elettrica, si può facilmente immaginare, ha un impatto particolarmente pesante sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista ambientale. Buonasera a Maurizio Melis, questa sera parliamo qui a Mr. Kilowatt del progetto Alp Energy, un progetto dell'Unione Europea che possiamo certamente così catalogare tra le attività di sviluppo delle smart grid, le reti intelligenti, di cui tra l'altro parlavamo pochi giorni fa, e dicendo anche che l'Italia in questo settore sta svolgendo un ruolo di primissimo piano. Il punto nello specifico caso della regione alpina è che alimentare piccole comunità isolate con le energie rinnovabili è in qualche modo più difficile, perché è più difficile usare la rete elettrica come vaso di compensazione. Assorbendo quindi energia dalla rete quando le fonti rinnovabili non ne producono a sufficienza, invece mettendola in rete quando ne producono in eccesso. Ecco allora che, non potendo o avendo più difficoltà a fare questo, c'è bisogno di strategie diverse, e strategie diverse a seconda delle fonti rinnovabili disponibili localmente. Alp Energy ha appunto il compito di esplorare queste strategie. L'istituzione scientifica italiana più coinvolta, senza dubbio, la Fondazione Politecnico di Milano, che è qui rappresentata da Marco Merlo, ricercatore del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano ed evidentemente coinvolto nel progetto. Buonasera Merlo. Buonasera. Allora, senta, io credo che possiamo proprio partire subito raccontando qualche caso concreto, come lo avete affrontato. Sì, un piccolo inciso: si è appunto parlato di piccole realtà, forse isolate o poco connesse alla rete elettrica. L'approccio proposto parte proprio da qui, cioè dal prendere dei casi particolari, realtà forse ben confinabili, e cercare su queste di costruire un nuovo modello da applicare anche un po' in grande. I contesti analizzati sono stati 3 in Italia, quindi sicuramente la nazione più rappresentata: Aosta, Mantova e Belluno. Partiamo da Aosta. Aosta è stato coinvolto il comune di Saint-Denis, un comune, diciamo, montano, alpino, con risorse prospettiche fotovoltaiche, un grosso impianto da 300 kW, grosso per il paese in analisi, e quello che si è fatto è installare in casa delle persone comuni e negli edifici della pubblica amministrazione dei contatori collegati tramite la rete GPRS per monitorare, come si fa in tante altre realtà, i consumi. Ma monitorare non basta, il bilanciamento è un po', come dire, un obiettivo generico. In questo caso si è analizzata la rete elettrica nel dettaglio per capire come bilanciare e quindi come informare le persone sui loro consumi energetici, non per chiedere da adesso a 5 minuti di accendere o spegnere la lavatrice, ma per informare su come migliorare il comportamento energetico. Cioè, ti dico in pratica che in questo momento sarebbe meglio non accenderlo, oppure che questo è il momento giusto, poi sta a te, consumatore, decidere se aderire o meno. Esatto, una sorta di addestramento. Uno ha delle informazioni e liberamente, forse anche in modo non invasivo, ha una specie di semaforo che può, se vuole, guardare. E qual è stata la reazione? Ecco, mi curiosisce, cioè c'è una reazione positiva? La reazione è sicuramente positiva. Bisogna dire che le persone coinvolte sono state opportunamente selezionate, quindi e motivate. Hanno giocato per 6 mesi. Nella vita vera, appunto per anni di uso, forse il modello è un po' prospettico, ma è evidente che questi sono primi step per cercare di capire come interagire con le persone. Quindi nel caso specifico di questo paesino, 400 case se non sbaglio, insomma, in Val d'Aosta, si è scelta la via di chiedere al consumatore di adeguarsi alla produzione di energia elettrica e nient'altro? No, in parte al consumatore si è chiesto di essere informato, si sono fornite notevoli dettagli sul consumo energetico e si è installata una batteria in alcune case che evidentemente fa tutto quello che la persona non fa. La batteria è un componente molto di moda, si potrebbe dire, sicuramente molto utile ma molto costoso, che va usato nel migliore dei modi. Il meno possibile in pratica, diciamo. Esatto. Così. Il consumatore faceva qualcosa, la batteria faceva tutto il resto. La batteria in questo caso era un oggetto fisico, sempre per il fotovoltaico, ma usando un altro tipo di accumulo. A Mantova si sono appunto sfruttati impianti a biogas che hanno una capacità intrinseca di accumulare questo biogas e quindi di modulare la produzione per compensare le fluttuazioni della produzione fotovoltaica e compensare l'aleatorietà del consumo degli utenti finali. Quindi Quindi questo paesello della Val d'Aosta si è dovuto ricorrere delle batterie, mentre a Mantova c'era disponibile il biogas e allora si affida al biogas questo stesso ruolo di compensare le fluttuazioni del sole. C'è anche un altro terzo caso interessante. Sì, il terzo caso è il caso di Belluno, in cui sono state sfruttate risorse idroelettriche più importanti, quindi di potenza maggiore. E queste risorse idroelettriche sono state veicolate in termini di informazioni sulla produzione in modo un po' sui generis, ossia sfruttando la pubblica illuminazione, i cavi elettrici e la pubblica illuminazione su cui sono state convogliate queste onde, queste informazioni, per essere poi raccolte in un opportuno centro di controllo. Il centro di controllo andava poi a coordinare, sempre a informare, non in quel caso persone comuni, ma degli energy manager della pubblica amministrazione, che potevano così meglio agire sugli impianti a livello di comune, di centro anziani, di ospedale e quant'altro. Quindi sempre un'informazione utile a una maggiore efficienza non del singolo componente ma dell'intero sistema energetico. Ecco, quello che però viene fuori è che siccome ognuno di questi sistemi energetici locali, che tra l'altro voi avete, come dire, evoluto in una cosa che chiamate virtual power system, poi magari in 3 secondi ci dice che cos'è, quello che viene fuori è che i comportamenti non sono gli stessi dappertutto, ma in qualche modo i comportamenti dovrebbero andare incontro alla disponibilità locale di energia. È così, il virtual power system è proprio un approccio in cui non è coinvolta necessariamente il grosso distributore, ma anche, diciamo, entità terze, pubblica amministrazione, privati possono associarsi in questo nuovo modello prospettico. Ad oggi non abbiamo una tariffa definita, ma associandosi in questo modo conseguono sicuramente dei vantaggi in termini di efficienza. Grazie Merlo. Arrivederci. È tutto, a domani.